quanto stupore, di quanto stupore. Io posso ancora amarti, io posso ancora amarti. Di quanto stupore, di quanto stupore. Pioggia fuggita dal cielo, pioggia fuggita dal cielo. Spigolo interminabile, spigolo interminabile, in cerca di un angolo d'infinito, in cerca di un angolo d'infinito. T'avrei cercata se non fossi mai nata, t'avrei trovata nido d'acqua salata. T'avrei cercata se non fossi mai nata, t'avrei trovata nido d'acqua salata. Ad aspettarmi, ad aspettarmi più. Quanto stupore, io posso ancora amarti, io posso ancora amarti. Se ladra già rubi, se ladra già rubi, dell'amore parlato per te, dell'amore parlato per te, dell'amore parlato per te, dell'amore parlato per te. T'avrei cercata se non fossi mai nata, t'avrei trovata nido d'acqua salata. T'avrei cercata se non fossi mai nata, t'avrei trovata nido d'acqua salata. T'avrei cercata se non fossi mai nata, t'avrei trovata nido d'acqua salata. T'avrei cercata se non fossi mai nata, t'avrei trovata nido d'acqua salata. Ad aspettarmi, ad aspettarmi più. Di quanto stupore, io posso ancora amarti, io posso ancora amarti. Di quanto stupore, dipingi pareti e parole, dipingi pareti e parole. Da cui dipendo e vivo. Oh.